Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 7. Presi una stanza con Anna al Greenwich Village. Io avevo solo voglia di guardarmi un po' intorno. Anna invece si mise in cerca di un lavoro e trovò impiego come donna di servizio presso una giovane signora che abitava in un piccolo appartamento in Washington Square. Per una settimana non feci che bighellonare in giro per il village. Ma non poteva durare. Avevo ancora in mente Mallettini. Decisi che dovevo seguirlo, anche se lui non mi voleva. Mi era rimasto qualche soldo e riuscii a pagarmi l'autobus fino a Trenton, dove abbordai un mezzo diretto a Chicago. Se si eccettua un battibecco con un frenatore rognoso a Buffalo e una notte piena di eventi in un campo hobo aerei, non mi accadde nulla fino a Cleveland. Avevo sentito dire che lo scalo di quella città era duro, perciò saltai giù dal mio carro appena potei e svicolai di soppiatto fra le file di vagoni. 150 metri più avanti, lungo i binari, un piedipiatti dall'aria bellicosa mi fermò. «Dove stai andando?» mi chiese. «A casa», risposi. «Non contar balle», ringhiò. «A chi vuoi darla a bere? Lo sai bene che sei arrivata su un merci. Ti sbatto dentro». Mi afferrò per un braccio e mi trascinò nella baracca della squadra di manutenzione. Poi si chiuse la porta alle spalle. «Se ti consegnassi alla polizia, ti darebbero 60 giorni», disse. «Se sarai carina con me, ti lascerò andare e in più ti darò qualche spicciolo». Quel brutto ceffo era abituato a ottenere ciò che voleva. Mi immaginai tutte le ragazze che erano cadute nella sua grinfia ed erano state sequestrate in quella baracca prima di poter raggiungere Cleveland. Di rosso, mi divincolai e gli allungai un marrovescio. «Fammi dare 60 giorni», gli dissi. Con il viso sconvolto dall'ira, afferrò il telefono e chiamò un cellulare. Poi sedette, lanciandomi sguardi di fuoco, in attesa che arrivasse la polizia. Se fosse possibile uccidere con uno sguardo, saremmo morti entrambi in quella baracca. Mi portarono alla centrale e il mattino seguente comparvi dinanzi al giudice. «Avete un legale?» mi chiese. «No». Allora un giovane avvocato, Martin Eisler, si fece avanti e disse: «Vostro onore, sarei lieto di assumere la difesa di questa giovane signora». Il cancelliere mi porse una Bibbia. «Non voglio giurare sulla Bibbia», protestai. «Perché no?» si informò il giudice. «Perché no?» ripetei vacua. Non ero sicura di saperlo, ma la Bibbia che mi avevano messo in mano fece montare la rabbia. Mi vennero in mente le parole dei miei amici liberi pensatori e le usai. «Perché la Bibbia non è altro che una cozzaglia di menzogne, un pacco di fregnacce che servono soltanto a soggiogare le menti dei lavoratori». Il giudice mi guardò torvo. «Procediamo», disse, rivolto agli avvocati. I due agenti della polizia ferroviaria giurarono di avermi vista scendere da un vagone pieno di merci ed era evidente che per entrarvi avevo rotto i sigilli. Dissero anche che li avevo insultati, che avevo resistito all'arresto imprecando volgarmente e che avevo cercato addirittura di colpirli. Il signor Eisler fece il possibile per difendermi, ma invano. «Berta Thompson, vi condanno a 60 giorni di detenzione, da scontare nella casa di lavoro di Warrensville. Così avrete tutto il tempo per leggere la Bibbia». A bordo di un grosso autobus fui trasferita con altre 6 detenute del carcere della contea di Cleveland alla casa di lavoro di Warrenville. Lì ci tolsero tutti gli abiti e ci mandarono alla doccia, come prescriveva il regolamento. All'uscita dal locale delle docce dovemmo camminare per circa 3 metri, completamente nude, con le braccia alzate, le mani aperte e la bocca spalancata, in modo che la sorvegliante potesse vederci bene. Per accertarsi che non introducessimo droga nel carcere, guardarono in tutti gli orifizi del corpo e persino tra le dita e tra i capelli. Nello spogliatoio ci restituirono le nostre scarpe, le calze e la biancheria e ci diedero un'uniforme pulita. Scoprimmo che le nuove arrivate, come noi venivano chiamate, pesce fresco. Ci diedero anche qualcosa da mangiare, benché l'ora di cena regolamentare fosse già passata. Poi ci mostrarono i nostri letti nel dormitorio e ci condussero nel cortile della prigione, dove ci fu consentito di rimanere un paio d'ore prima di andare a dormire. Osservai le mie compagne. Non sembravano tristi né abbattute. Le più giovani chiacchieravano e ridevano, le altre, un terzo delle quali aveva superato probabilmente la cinquantina, sedevano sulle panche e discorrevano tranquillamente. Circa la metà delle detenute era di colore. Big Mami, un irlandese grande e grossa, mi salutò con un gran largo sorriso. «Vagabondaggio», ha detto il giudice, risposi, «ma secondo me la causa di tutto è che non ho fatto un servizietto on tale, e voi altre?» Oh, ubriachezza, prostituzione, furto. Qualcuna è dentro per droga. Mi tornò in mente una cosa che aveva detto Franklin Jordan. Tutto ciò che le donne fanno è motivato da una brama di piacere, di profitto e di potere. Chi è quella laggiù, così depressa? Domandai, indicandole una ragazza dallo sguardo triste che stava in piedi, a mani giunte e mormorava tra sé. Oh, è una che i piedi piatti hanno pescato per la strada. Se ne andava in giro dicendo: mi ha assassinata con il suo amore. Per me è scema. Ma il giudice non la pensava così e l'ha mandata qui per 30 giorni a calmarsi un po'. Invece lei non smette, va avanti a urlare tutta la notte: mi ha assassinata con il suo amore. Quelle laggiù, sedute sulla panca, sono drogate, mi indicò un gruppo di donne ridotte piuttosto male. Rendono la vita difficile a tutte, continuò. Se ti chiedono di ricevere a tuo nome lettere destinate a loro spedite da gente fuori dal carcere, rifiuta. Una casa di lavoro come questa non sarebbe poi un brutto posto se non fosse per le drogate. A causa loro non possiamo farci mandare niente da fuori, né cibo né vestiti, nulla che possa renderci la vita più comoda. Poi, di sorella, le vedi quelle due con i capelli corti? Disse indicando due ragazze con i capelli alla maschietto. Tienti lontana anche da loro, sono lesbiche. Se non stai attenta cercheranno di farti. Il giorno seguente fui assegnata alla lavanderia e scoprii che avrei lavorato alla macchina stiratrice proprio con Big Mami. La sua debolezza era l'alcol. Era stata a Warrensville 23 volte e per 20 volte si era fatta beccare dallo stesso poliziotto. Aveva una sorta di complesso. Quando si ubriacava in una certa bettola, il Cassidy's Saloon, le veniva voglia di ripulire il locale. Terminò di scontare la sua pena 2 giorni dopo il mio arrivo. Dopo di lei ebbi come compagna di lavoro alla stiratrice una bellissima ragazza dagli occhi grigi, Lucille. Fino al giorno prima Lucille aveva lavorato in casa del sovrintendente Barnes. 20 minuti dopo la sua comparsa la lavanderia fu tutta un brusio, un cicaleccio. Fare la cameriera in casa Barnes era il lavoro più ambito. Si mangiava bene e si godeva di una relativa libertà. A quanto si diceva, per ottenere quell'incarico si doveva essere appoggiate da fuori. Secondo alcune, Lucille era stata cacciata perché era una lazzarona. Altre sostenevano che usasse la droga, ma le più vecchie notarono che aveva una bella figura. Immaginarono che l'anziana signora Barnes ne fosse stata gelosa. Dormivamo tutte in un'unica stanza, un grande dormitorio con 2 file di 60 letti e con un'ampia finestra ogni 2 posti. Il locale aveva il soffitto alto ed era arioso. Io occupavo l'ultimo letto di una fila. Lucille dormiva in quello accanto. Il corridoio fra le due file era largo 4,5 metri, e tra un letto e l'altro c'era circa 1 metro. Lucille e io lavorammo insieme per quasi una settimana. Non era fredda né ostile nei miei confronti, ma non parlava mai di sé. Io le raccontavo le mie esperienze sui carri merci e le facevo domande, ma lei scuoteva la testa con fare bonario e sempre con il medesimo sorriso. Sembrava concentrata su qualcosa e presto imparai che era meglio non dirle nulla. La sua filosofia sembrava essere questa: ho da scontare 60 giorni, meno ne parlo, più in fretta passeranno. L'accettai anch'io. Le guardie carcerarie effettuavano periodicamente severissimi controlli, le cosiddette scosse, perquisivano accuratamente tutte le detenute, frugavano nei letti e tra gli effetti personali negli armadietti. Scopo delle scosse era trovare oggetti introdotti furtivamente: armi, coltelli, seghetti, liquori, droga, sigarette, tabacco, fiammiferi, vestiti rubati in lavanderia, cibari extra. In particolare le guardie cercavano cose che le ragazze potevano aver rubato alle compagne. La maggior parte delle detenute che non avevano nulla da nascondere non temeva le scosse. Rubarsi a vicenda un rossetto, biancheria o fazzoletti non era considerato un grave crimine. Ma sottrarre capi di vestiario alle sorveglianti e alle guardie era imperdonabile. Ricordo che una volta una delle ragazze mi regalò un bellissimo reggiseno. Lei ne aveva due. Pochi giorni dopo una delle sorveglianti me lo vide addosso e mi chiese dove l'avessi preso. Immaginai subito che fosse rubato e risposi di averlo trovato. Con tono amabile la sorvegliante mi disse che lavorava in quel posto da 25 anni e non aveva trovato mai niente. Poi mi portò via il reggiseno. La domenica eravamo libere di ricevere visite da parte di chiunque. Tutti gli altri giorni i visitatori dovevano essere muniti di un lasciapassare rilasciato dal direttore dell'assistenza sociale oppure dal sovrintendente. Per me non venne nessuno, perché nessuno sapeva dov'ero. Lucille, invece, ebbe una serie di visite proprio speciali. Il sabato lavoravamo soltanto mezza giornata. Sabato pomeriggio, prima della fine dell'orario di lavoro, Sadie, la spacciatrice, venne in dormitorio a dire che c'erano visite per Lucille. Mentre Lucille era in parlatorio, arrivarono il signor Barnes, 3 sorveglianti e 2 guardie, che ci misero tutte in piedi contro il muro, ciascuna accanto al suo letto. Era iniziata una scossa. Una delle sorveglianti e uno degli uomini del corpo di guardia, aiutati da 2 detenuti di fiducia, perquisirono accuratamente i letti. Tirarono via le lenzuola e le federe, scuotendo ben bene, poi tastarono e palparono a fondo con forza i materassi. Li esaminarono scrupolosamente, cercando piccoli strappi o rammendi recenti. Spesso le detenute tagliavano la stoffa del materasso, vi nascondevano ciò che volevano e poi ricucivano. Ma la squadra della scossa conosceva tutti questi trucchi. La sorvegliante e i suoi aiutanti passarono al setaggio gli armadietti, in cui le ragazze tenevano i pettini, il rossetto, la cipria e vari gingilli. Spremettero inesorabilmente i tubetti di dentifricio, come se fossimo tutte drogate. Infine esaminarono attentamente tutti i capi di vestiario, aprendo le cuciture nei punti in cui il tessuto faceva spessore. Quando Lucille tornò dal parlatorio, la scossa era arrivata al suo letto. Ne fu sorpresa e sconvolta. Subito si girò e chiese alle sorveglianti il permesso di andare al gabinetto, che le fu negato. La finestra fra i nostri 2 letti era aperta. Notai che Lucille aveva in mano qualcosa. Prima fece qualche passo intorno, poi nascose le mani dietro la schiena e cercò di lanciare quel qualcosa fuori dalla finestra. Ma le andò male. L'oggetto urtò contro il bordo inferiore della finestra, rimbalzò e cadde sul mio letto, vicino al cuscino. La squadra stava lavorando all'altro capo del letto, ma non si lasciò sfuggire l'oggetto, un copridito di gomma imbottito di eroina. Barnes mi guardò. «Ma guarda questa cavallona, ci ha fatti fessi sin da quando è entrata qui dentro». Mi sentii avvampare. Lanciai un'occhiata a Lucille sperando che riconoscesse l'oggetto come suo, ma il suo viso era privo d'espressione. Mi presero per un braccio e mi fecero sedere su una sedia al centro della stanza, mentre perquisivano Lucille e il suo letto. Il sovrintendente andò a telefonare e dopo circa mezz'ora arrivarono due agenti della squadra federale narcotici. Barnes mi condusse nel suo ufficio. «Signorina Thompson, questi sono due agenti federali. Voglio che siate sincera e franca con loro. Siete una brava ragazza, siamo certi che non siete una drogata e se direte la verità vi lasceremo andare. Vi mancano soltanto pochi giorni da scontare e avete la possibilità di fare qualcosa per il governo. Amate il vostro paese, siete una brava cittadina e potete aiutarci». Ma io non dissi nulla. Allora intervenne uno dei due agenti. «Senti un po', ragazzina, questa cosa non è uno scherzo, è un crimine federale. Abbiamo trovato la roba sul suo letto e finirai in un penitenziario per 5 anni se non ci dici la verità. Non vorrai mica disonorare tua madre e la tua famiglia, no? Perciò devi dircela la verità. Se non sei stata tu, devi sapere chi ha messo lì quella roba. La tua amica Lucille se ne frega di te, non ti darebbe un soldo neppure se ti vedesse morire di fame. E tu saresti così fessa da farti 5 anni al posto suo? Sai bene che è una drogata e noi sappiamo che tu la tenevi la roba». «Non ne so niente», risposi, e poi ripetei un centinaio di volte: «Non sono una drogata, non ho mai usato droga in vita mia, non saprei neanche come fare». Provarono a convincermi con le buone, cercarono di corrompermi, mi minacciarono agitando i pugni, urlando e coprendomi di insulti. Alla fine, esasperata, colpii una delle sorveglianti con uno scaffo. Allora le altre due sorveglianti e 3 guardie mi afferrarono, mi trascinarono nei sotterranei e mi gettarono nel buco, l'orribile buia cella di isolamento. Caddi a terra esausta, rimasi così per ore, credo. Poi a un certo punto la porta si aprì e le guardie buttarono dentro qualcun altro. Nella cella era buio pesto, udii un lamento, poi la voce di Lucille. «Sei qui?» chiese. A tentoni mi avvicinai e l'abbracciai. Stava male, piangeva. Taceva e neppure io me la sentivo di parlare. Perciò rimanemmo tutte e due lì sedute a terra, abbracciate l'una all'altra a singhiozzare. Dopo un po' ci addormentammo, non ricordo per quanto tempo dormimmo. Quando mi svegliai, Lucille mi teneva la testa in grembo. «Come ti senti?» domandò. «Mi hanno detto che hai cantato, ma so che non è vero. Sei giusta tu, dovresti fare qualcosa di meglio che viaggiare sui carri merci, altrimenti non riuscirai mai a tirar su un po' di soldi». «Noi facciamo così», ribattei. «Ma non ha molta importanza. E tu perché ti droghi?» Scoppiò in una risata stridula. «Mi fa bene all'asma», disse. Poi tornò seria. «La roba non ha mai fatto bene a nessuno, salvo che agli spacciatori. E se non ci credi, te ne convincerai tra un paio di giorni, quando comincerò a togliermi il vizio. Grazie a Dio, venerdì mattina saremo tutte e due fuori da questa topaia». Nei 2 giorni seguenti ebbi una delle esperienze più strazianti di tutta la mia vita. Vidi una donna costretta alla cura del tacchino freddo, a darci un taglio alla droga. Lucille soffrì le pene dell'inferno in quella cella. Prima divenne irritabile, loquace. Continuava a camminare avanti e indietro, poi cominciò a scalciare, a pestare i piedi, a vomitare. Accusava dolori all'addome e ai muscoli. Mi chiese di massaggiarle le braccia e le gambe, pregava e bestemmiava. Perdemmo la cognizione del tempo perché la cella era sempre immersa in una totale oscurità. Lucille si lamentava e gridava sempre più forte. Improvvisamente, dopo ore e ore, si aprì la porta ed entrarono una guardia e una sorvegliante che evidentemente erano rimaste per un po' fuori dall'uscio ad ascoltare. Ah, che cosa succede? Fa troppo caldo qui dentro, ragazze? Chiese la guardia. Cristo, mandatemi un dottore, implorò Lucille. Sto morendo, morendo. Sai bene come puoi fare ad avere un medico, le risposero. Sai che soltanto gli agenti federali possono darti una mano ora. Perché non mandi a chiamare il dottore che è venuto a trovarti sabato? L'hanno preso e ha confessato tutto. Sofferente com'era, Lucille trovò la forza di ribattere in tono di sfida. Qualunque cosa abbia confessato sono balle, disse. Passarono altri 3 giorni, che parvero interminabili. Lucille giaceva esausta, priva di forze, ma non stava più così male. Poi cercammo di fare progetti. Mi raccontò un po' di sé e quando le dissi che volevo andare a Chicago e che ci sarei andata in merci, disse: «Io non ho viaggiato mai in un carro merci». «Scar, ma scommetto di aver fatto qualcosa che tu non hai fatto mai. Mi sono infilata nella toilette delle donne e me la son fatta gratis da Omaha a Cedar Rapids, nello Iowa. A Omaha mi ero ridotta al verde. Lascia perdere il perché. Avevo conosciuto un commesso viaggiatore che aveva fissato il suo quartier generale in un hotel di Cedar Rapids e sapevo che mi avrebbe sistemata se fossi riuscita a raggiungerlo. L'idea di nascondermi nella toilette mi è venuta ripensando a un episodio di quando ero bambina. Mia madre e io eravamo al gabinetto quando era passato il controllore, che poi non era più tornato a chiederci i biglietti. Alla fine del viaggio li avevamo restituiti e avevamo chiesto il rimborso. Sapevo di correre dei rischi, ma ero disperata e disposta a tutto. Adocchiai una carrozza diurna, senza cuccette, e salii insieme a un gruppo di studenti universitari che stavano aiutando una ragazza in partenza a caricare le valigie. Fui fortunata, la toilette era aperta. Aspettai più di mezz'ora fino a quando il treno fu partito e il controllore fu passato. Poi uscii e mi sedetti accanto al primo uomo che mi lanciò un'occhiata. Il cartellino giallo sollevato tra i finestrini indicava che il controllore aveva già bucato il suo biglietto. Era sera. Dopo un po' tutti cominciarono a togliersi le scarpe e a cercare una posizione comoda per dormire. Quando vidi che il controllore stava aprendo la porta per passare nella nostra carrozza, mi rannicchiai anch'io sul sedile e finsi di dormire appoggiando la testa sulla spalla del mio pollastro. Aveva tentato di toccarmi le gambe fin da quando mi ero seduta, perciò non mi mandò via. Le domandai dove avesse intenzione di andare una volta uscita di prigione. «Andrò a Chicago e ti pagherò il biglietto». D'un tratto mi resi conto che non avevo vestiti decenti e glielo dissi. «Al diavolo i vestiti», rispose. «Non significano nulla, per me vai bene. Se hai potuto finire in questo buco per proteggermi, puoi anche viaggiare con me in una carrozza passeggeri, no?» Giovedì pomeriggio fui convocata nuovamente dagli agenti federali, i quali, bontà loro, mi offrirono un'ulteriore e ultima possibilità di evitare 5 anni di carcere confessando che era stata Lucille a buttare la roba sul mio letto. «Non ne so niente», dissi. «Non uso droga, non voglio usarne, non so come sia capitata qui, non voglio saperne nulla». Cercarono di confondermi, mi minacciarono e alla fine dissero che sarebbero venuti a prendermi al mattino seguente per portarmi al penitenziario. Ma non ci rimandarono nel buco. Quella notte Lucille e io dormimmo nei nostri letti, dopo un bagno e una buona cena. Lucille però non riusciva ancora a mangiare, così io divorai la mia razione e anche la sua. Il mattino seguente, dopo colazione, ci chiamarono e ci rivestirono. Avevo 65 centesimi quando ero stata arrestata e mi furono restituiti. Lucille firmò una ricevuta per $65. Prendemmo un tram e dopo circa 1,5 chilometri, Lucille vide un taxi. Lo chiamammo e ci facemmo condurre allo Statler, a Cleveland, dove Lucille prese una camera e ritirò la posta che si era fatta inoltrare a quell'indirizzo. Salimmo in camera, poi Lucille mi diede del denaro e mi mandò a comprare il giornale e delle arance. Quando tornai, un quarto d'ora dopo, la trovai allegra e su di ciri, come non l'avevo mai veduta. Capii che tra la posta c'era una busta con la droga e che Lucille si era fatta di eroina. I suoi guai e le sue sofferenze erano finiti. Ordinò il pranzo in camera. Mangiammo, ridemmo e scherzammo, come se non avessimo un pensiero al mondo. Viaggiammo in cuccetta, arrivammo a Chicago. Il mattino seguente alle 8 e prendemmo un taxi fino a casa di Lucille. Il palazzo era modesto, ma l'appartamento era arredato lussuosamente. Anna, la compagna di stanza di Lucille, ci diede il benvenuto. Da un'altra stanza uscirono due uomini dall'aria assonnata, Jake e Jimmy. Jimmy era un tipo di taglia media, dal colorito olivastro, con i capelli bruni sporchi. Jake era scuro di carnagione, sembrava un italiano. I due giravano in canottiera e pantaloni e non parvero fare molto caso a noi. Anna mi diede un vestito e della biancheria e mi riempì una vasca d'acqua calda. Avevo appena finito di fare il bagno e di vestirmi quando suonò il campanello ed entrò un uomo che mi fu presentato come Big Otto. In breve appresi che era stato appena rilasciato dalla Bordeaux Prison di Montreal, dove aveva scontato 2 anni. Seppi che era stato condannato per furto perché era un ladruncolo, un mascalzone, come dicevano. Mi colpì l'assenza di ogni entusiasmo o emozione. Nessuno parve impressionato dal fatto che Big Otto e Lucille erano appena usciti di prigione. Per quella gente tutto era normale, scontato. Big Otto mi affascinò subito. Era alto, robusto e nonostante il pallore da carcerato aveva la pelle scura. Mi scrutò con i suoi occhi infossati e disse: «Come va, ragazzona? Stai proprio bene, mi pare. Perché non beviamo qualcosa insieme tutti quanti?» Il vestito di Anna mi stava bene e con il busto e il reggiseno mi sentivo proprio a posto, a mio agio. Mi ero spazzolato i capelli all'indietro e Anna, che mi aveva aiutato a vestirmi, aveva insistito perché mettessi il rossetto e segnassi le sopracciglia con la matita. Contemplando la mia immagine allo specchio non potei trattenere un sorriso di ammirazione. Il pranzo fu animato. Si parlò esclusivamente di lavoro. Otto disse che le guardie franco-canadesi non possono sopportare gli americani, soprattutto in prigione. Raccontò di aver lavorato nei gabinetti del carcere e di avervi incontrato parecchi dei suoi vecchi amici. Nessuno dei commensali manifestò simpatia o interesse. Anzi, sembrava che li annoiasse sentir parlare di prigione. Tutti avevano già avuto esperienze carcerarie. Magari non nella Bordeaux Prison, ma nella Leeds Farm di Kansas City, nella Bannery di Chicago, nella Down Dock di Boston o nella Welfare Island di New York. La conversazione si spostò rapidamente sul luogo del prossimo colpo. Otto disse che doveva correre alla Sheridan Plaza a recapitare un messaggio per conto di Jimmy Doyle, che aveva appena lasciato a Montreal, e mi invitò ad accompagnarlo. Quando fummo nei pressi dell'albergo mi chiese di aspettarlo in un negozio. Tornò dopo un quarto d'ora e io gli chiesi se non avesse voglia di fare 4 passi verso il lago. «Non oggi, piccola. Ho un affaruccio da sbrigare». Ci fermammo davanti a un negozio di articoli per signora e mi chiese di aspettarlo fuori per qualche minuto mentre entrava a vedere una persona. Poi ci fermammo davanti a un drugstore, all'angolo, e di nuovo dovetti aspettarlo fuori. Quando tornammo a casa, si avvicinò al tavolo e tirò fuori da chissà dove 2 bellissimi pagliaccetti, 6 paia di calze, una boccetta di profumo, una confezione di cipria e un vasetto di crema. «Ecco, piccola, sono tutte cose che ti possono servire, ma non cercare di cambiarle se non ti piacciono», perché erano in offerta, senza possibilità di resa. Per un attimo non seppi che cosa dire e mi limitai a guardare le cose che Otto mi aveva dato. Ero praticamente sicura che le avesse rubate. e non ne ero contenta, ma nella mia posizione non potevo certo fargli la morale. Perciò lo ringraziai brevemente e lasciai correre. «Non c'è di che, piccola», disse. «Non pensarci, e ti procurerò anche dei fazzoletti, così potrai pulirti il naso». Quella sera, dopo che ero già andata a letto, venne nella mia stanza e ne fui contenta. Fu un amante straordinario, non mi sussurrò parole dolci, non ebbe tenerezze, ma il mattino seguente mi svegliai tra le sue braccia. Le sue guance erano leggermente incavate e avevano un colorito olivastro. C'era un velo di tristezza sul suo viso. Quando lo baciai, ebbe un sussulto, poi aprì lentamente gli occhi. «Sei tu, bellezza?» chiese dolcemente. «Gesù, è bello svegliarsi e vedere una tappezzeria. Per 2 anni non ho visto altro che sbarre e intonaco imbiancato a calce». Libri ribelli. Libri ribelli.